Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo! Eccoci, ci siamo! Qua. Caro Oscar Giannino, inizia un'altra settimana. Caro Alessandro Milan, inizia un'altra settimana. Oggi lunedì è Santo Reste e il mio commento è: con Sposetti vien la peste. Con Sposetti vien la peste. Sposetti, dobbiamo raccontarlo a chi non lo sa, è l'ex tesoriere dei DS. Immagino che ti abbia molto colpito il fatto sì. che 107 milioni di debiti della vecchia unità li paghiamo lo Stato. In lo questo Stato. Caso chi è lo Stato? Siamo noi, nel senso lo che quando Stato, si tratta di pagare noi. Siamo sempre noi, cioè sì, i contribuenti. Sì, sì. E Sposetti è felice perché mentre lui ha salvato il patrimonio dei DS, lui lo ha salvato. Ma i debiti dei DS, quelli li paghiamo noi grazie a una leggina del 1998. Esatto, oggi lo racconta Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Siete contenti, cari italiani? Vi siete svegliati con 107 milioni pagati a vostra insaputa? Questi sì, a vostra insaputa. A nostra insaputa, ma le case e il patrimonio immobiliare di DS sempre nelle mani del partitone rosso restano. Bene sì. Viva l'onestà e la virtù di quelli che vogliono fare poi la lotta all'evasione, la sinistra, il PD, gli ex PDS, DS. Che però fottono a noi tutti, cari ascoltatori. I loro debiti non li hanno pagati perché li avete pagati voi. Voi, anche noi un po', anche certo, tu Oscar. Anch'io ognuno per mia quota parte. Sì, sì, sì. 107 milioni. E uno ci ascolta e dice, ma perché allora ridete? Dovreste ma perché amici, bisogna prenderla così. Cosa dobbiamo fare? La rivoluzione? Lo raccontiamo. Con poi. Filosofia, che del resto il portafoglio porta via. Mi sembra giusto. È fantastico. Comunque, a proposito di S rossa, oggi ci sono tanti argomenti. La rossa Bologna, hai visto che la rossa Bologna si è tinta ieri di nero? Ho visto Guccini che dice ci hanno sfidato, resisteremo, intervistato sul Fatto Quotidiano. Gli scontri a Bologna, ecco questa roba che ci sono stati i centri sociali, sabotata la TAV, tutte le volte che Salvini va a Bologna. Succede questa casino, cosa qua. Casino. Sai come ha risposto Salvini dal palco? Salvini, dopo i campi rom, i centri sociali. Sentilo qua. Quei delinquenti dei centri sociali che sgombereremo uno per uno. Che sgombereremo col sorriso uno per uno. Col sorriso, dopo però. I campi rom, col sorriso. Col sorriso, dopo i campi rom, i centri sociali. Ma insomma, che è successo ieri a Bologna? Ma è successo la grande vittoria della sinistra dopo vent'anni. Berlusconi consegnato al ruolo di rottame pensionato. Scusami. Ecco, tu sei della teoria, come racconta molti giornali, che ieri è stato il sipario di Silvio Berlusconi. Ma non lo so se sia stato il sipario. Certo è che, voglio dire, sembrava un vecchio bamba rispetto a chi comanda. Questo è il punto. Ma dai, è così. È andata così che Matteoli, uno che deve tutto a Berlusconi, ex AN, dica ho preferito andare a vedere l'Empoli perché mentre Renzi L'Empoli. Rompe a sinistra. Ma l'Empoli è tifoso dell'Empoli, ma non lo so, è tifoso della Juve, ma era per dire vado meglio che vado a vedere, cioè ripeto, quando Renzi dice Matteoli rompe a sinistra e nasce no sinistra italiana eccetera eccetera, noi gli regaliamo le praterie dei moderati. Ma questo al di là di tutto, io non condivido questo, dico semplicemente che è stata la rappresentazione di chi comanda nella destra ma italiana. Sì, ma assolutamente sì, oggi solo timidamente, ma neanche con molta convinzione, timidamente perfino Alessandro Sallusti dice no, ma è chiaro, oggi verranno messe in risalto tutte le zizzanie, ma in realtà Berlusconi ha avuto coraggio, ma no dai, chiaramente era evidente si che era è visto ieri chi è in questo momento per il popolo di centrodestra il sì leader. Ma senza aspettare i fischi, da come parlava Berlusconi, era un fuori fase, era un fuori cioè, mi dicono che devo chiudere, ma adesso ve ne racconto un'altra. Cioè, la frase di Bossi, sì. con tutto il problema fisico che hai, ma non mi pare troppo rimbambito Berlusconi, ecco, sintesi. È una frase abbastanza impietosa. Comunque, insomma, parleremo di questo se volete, 800 24 00 24. Se qualcuno ci vorrà raccontare che è stato un biscottone quello che è successo ieri a Valencia contro Valentino Rossi, diteci anche questo, perché è la notizia, no? Mi sembra abbastanza evidente comunque, sì. Così. Sì, però Oscar, scusa, io oggi l'ho scritto su Twitter, mi sono beccato i miei rimbrotti. La tua dose. La mia dose di rimbrotti, ma fossero stati due italiani lì davanti o tre italiani, non avremmo fatto la stessa cosa? No. E mi dico, no, perché Biaggi, Capirossi, non te lo ricordi? Sì, ma c'erano delle rivalità, evidentemente loro vanno un po' più d'accordo. Cioè, nel senso, è un rapporto personale tra scusami, appunto. Il problema è che di solito i piloti sono tra loro concorrenti persino quando sono guide della stessa casa, figurati tra case diverse come accade con Lorenzo. Infatti dovrebbe essere quindi è evidente che non è così. Non è così, quindi gli italiani avrebbero, cioè, è proprio stato sono questi due spagnoli che vanno troppo d'accordo. E che dobbiamo, sì, ma soprattutto è Marquez che perde la faccia, cioè fa questo ruolo di dire ti faccio perdere e io non combatto. È evidente che questa volta non bisogna più essere specialisti, come è una cosa macro evidente, è un biscotto d'Oria questo moto mondiale. Secondo me, voglio dire, resta il fatto che Valentino Rossi non ci doveva cascare alla faccenda del è chiaro, l'ha perso il mondiale, l'ha perso la gara precedente, e detto questo ci sono le sconfitte che eternano una leggenda, questa è la mia opinione. Questo effettivamente sì, forse Valentino Rossi perdendo, ma così in questo modo con 22 sorpassi all'ultimo Gran Premio diventa come dire ancora più un mito per tutti coloro che lo seguono, perché è il vincitore morale, mettiamola così, tanto in carriera ne ha vinte tante, insomma, per l'età che ha questo poteva essere una specie di apoteosi, finale, perché continuerà, quindi vedremo l'anno prossimo che vendette si prende, ecco, da questo punto di vista. Comunque parliamo di tante cose, se volete parliamo anche del Papa. C'è un Oscar Giannino che era molto arrabbiato con il Papa, perché ha detto, il Papa ha detto, ma ti pare che chi ruba fa un reato? Sì, ho capito, ma stava parlando dei libri usciti, cioè di chi ruba i documenti, ma forse chi ruba i soldi come il cardinale Bertone, non ho capito, forse quello è più importante però. Ma ti credo quello che dalla fondazione Bambino Gesù c'è, cioè, 200.000 euro a sua insaputa, tanto per cambiare e allungare la lista di quelli a sua insaputa. Beh, insomma, adesso non vorrei dire, ma se si usa da parte del pontefice il verbo rubare, certo, ricordiamoci che con l'8 per mille l'inoptato, innanzitutto, come dicono molti cardinali, non è vero che rubiamo ai poveri, infatti rubate a tutti i contribuenti italiani. Eccolo là. Allora ti faccio sentire un amico sicuramente tuo, e cioè il direttore di Radio Maria, padre Livio. Perché fai quella faccia? Non è amico tuo? Non lo conosci? No, né amico mio. No. Io però devo dire, ha una voce, io sono affascinato dalle voci in radio, e quando lo ascolto ha una voce che ti ancora lì, no? Padre Livio. E sentite padre Livio Fanzaga cosa dice. Che amenità, dice. Quello che mi scandalizza sono i Giuda di ieri e di oggi, giornalisti cattolici che dicono delle cattiverie, che hanno la lingua biforcuta, la penna biforcuta, è una cosa che mi fa rimettere. Mi fa nausea, mi fanno stomacare, e devo far fatica a pregare per loro, perché io li impiccherei quasi quasi. Questa dichiarazione di misura cristiana. Come poi i giornalisti cattolici, non so, ma si riferiva a Nuzzi, è giornalista cattolico, perché, Fittipaldi è cattolico. Perché l'argomento che venne usato dalle gerarchie contro Nuzzi è quello che è troppo comodo dire che tu sei cattolico e mandi i tuoi figli alle scuole cattoliche, visto che sei uno strumento del diavolo. Ma credo che padre Livio Fanzaga vorrebbe che noi gli riconoscessimo che in fondo è molto cristiano, perché non vorrebbe bruciarli ma solo impiccarli. Infatti, ecco. quasi. E poi è bello quando Ladri. Dice... Mi fa molta fatica pregare per loro, che per padre Livio deve essere come il massimo. Sono ben accolte le sue preghiere con questo spirito, sì, così sincere, così. Esatto. Comunque 800 24 00 24. Tra l'altro i giornali raccontano anche che Renzi avrebbe in mente i sindaci scelti. Allora, in poll c'è Zingaretti per Roma. Sì. Anche la Boldrini però si parla per Roma, credo più Zingaretti. E comunque a questo proposito lasciami dire, a proposito di cose su cui riflettere un po', arrabbiarsi, il Messaggero Roma appunto e il Lazio. Il Messaggero stamattina fa una bella inchiesta sui buffi che restano nella sanità del Lazio, che dica Zingaretti. Solo a Roma 700 milioni di deficit sanitario solo nei grandi ospedali romani, in testa a tutto. Vabbè, il momento è giusto quindi di lasciare la regione e andare non lo so, però, perché glielo ricorderemo che malgrado tutto ci sono ancora 700 milioni di buco al San Camillo e al San Giovanni, il contribuente stende i panni. mi sembra giusto. Però poi ci sono anche altri sindaci, no? A Torino c'è Fassino, riconfermato. A Bologna Elisabetta Gualmini. E se la vedrà con una dei 5 Stelle, questa sì. Chiara Appendino, secondo a me, Torino, Fassino. Tra le migliori candidate dei 5 Stelle che ci siano in Italia. Chiara Appendino, 31 anni, laurea da Bocconi, e, insomma, dovrebbe essere la candidata del Movimento 5 Stelle. Così come l'hanno scelta anche a Milano. Ecco, a Milano hanno scelto una candidata dei 52 anni, disoccupata. Sta in zona 3. Sì, che tra l'altro in passato, come racconta i giornali, votò un documento per non dare soldi alle commemorazioni per la Shoah, perché diceva bisogna commemorare tutti i popoli oppressi, anche i Rom, anche i palestinesi. Con questo relativismo non diamo i soldi per la Shoah. Guarda il personaggio, credo che abbia vinto, non si sa con quanti pochi candidata. Voti, perché aveva sfidato Casaleggio e il candidato di Casaleggio, questo è il segnale a Milano. Sì, candidata del 5 Stelle a Milano, sindaco. Però Bologna, il PD candida la Gualmini. Ma così pare, beh, sentirla, vedremo in prossimi giorni. Così pare. Da scienziata sociale oramai è diventata vicepresidente militante a tutti gli effetti. Romagna, chissà. Comunque, caro Oscar, ci sono tanti ascoltatori, a cominciare da Paolo da Roma che ci chiama. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Eccoci. Io volevo parlare del controbiscotto, sì. Non del biscotto, quello che Salvini ha fatto a Berlusconi e alla Meloni. Berlusconi si è presentato con la Meloni rivendicando quantomeno di essere il padre putativo, sì. E Salvini l'ha rottamato. L'ha rottamato. Diciamo poi, che Berlusconi si è prestato. È una scelta autonoma da parte di Berlusconi. Avrà seguito che c'è stato in Forza Italia chi gli diceva vai, chi no. Un controbiscotto. Va bene. Il controbiscotto. Quindi Salvini ha fatto un controbiscotto a Berlusconi e Meloni, secondo lei, Paolo da Roma. Grazie per questa lettura. Insomma, è quello che secondo me il pezzo più equilibrato che c'è oggi è quello di Giovanni Orsina sulla Stampa, per capire meglio com'è questo passaggio di testimone a favore di Salvini. E questo cambio che è anche un po', per così dire, antropologico, cioè rispetto ovviamente a chi era entusiasta di Berlusconi, e i tifosi di Salvini vogliono una destra che lui chiama fatta di estremista tutto, di centro. Oscar, ma stiamo parlando di Berlusconi che ha 80 anni. Ma c'è. Io non lo so se il leader del futuro del centrodestra sia Salvini, ma comunque stiamo parlando di una persona di 80 anni. La biologia ha le sue esigenze, per così dire. Voglio dire, ma quindi dovrà. Bastava sentire il tono con cui parlava, un po' impastato. Dovrà il centrodestra guardare avanti. In fondo, no, si può criticare o no, ma con Renzi il centrodestra l'ha fatto, voglio dire, no? Cioè, a guardare a generazioni nuove, altrimenti che si fa? Ma c'è Carlo che ci chiama da Modena. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Devo semplicemente dire che Berlusconi come uomo, come imprenditore, può fare a meno della Meloni, di Salvini ed anche di Forza Italia. Ma Forza Italia, la Meloni e Salvini, se vogliono andare al governo, non potranno fare a meno di Berlusconi, che dal dopoguerra ad oggi è stato l'unica persona che è riuscito a portare il centrodestra al governo. Trovino un altro. Non lo trovano al momento. Non lo trovano. Va bene, Carlo, la ringraziamo. Andrea Milano, c'è Sergio. Anche lui vuol parlare di biscottoni? No, no, Sergio vuole parlare di una cosa di cui oggi invitiamo a leggere il Fatto Quotidiano, Sergio, del lunedì, con queste due pagine in cui spiega il Fatto Quotidiano. No, diciamolo, perché sembra preordinato, ce lo scrive il nostro Lorenzo Nespoli, ci scrive l'argomento dei nostri ascoltatori. L'argomento che i nostri, no, ma spieghiamolo comunque, noi il pubblico del 24 lo sa, c'è gente che telefona per dire voglio parlare e lascia il nome e di un argomento. Sergio, lei che ci vuole dire? Buongiorno, stima e abbracci a voi due. Altrettanto, grazie. Io penso che ci sia dietro questa operazione del canone Rai in bolletta una specie di biscottone in atto. La parola del giorno, biscottone. È la parola del giorno. Biscottone. Per il semplice fatto che mi sembra che una Rai senza canone per Mediaset potrebbe essere un grosso problema dal punto di vista del mercato pubblicitario. Credo che lei abbia ragione. È proprio questo il punto, cioè la cosa del canone in bolletta in realtà è un passo avanti che tiene insieme, come sempre nel balletto delle due aziende finte concorrenti, gli interessi politico-mediatici che ci stanno dietro. Io credo che Sergio ci consegni una riflessione che naturalmente il partito Rai direbbe che non è vero, però di fatto ovviamente è proprio come dice lei, secondo me, almeno. Il biscottone dove sta, secondo lei? Il biscottone sta nel fatto che, diciamo, è Renzi che è il promotore di questa vicenda, ma nella realtà c'è una regia, diciamo così, condivisa con Berlusconi, il biscottone Renzi Berlusconi. È bravo, perché pensate quale, secondo me ha ragione Sergio, perché pensate quale effetto sarebbe nei confronti di Mezza se Rai facesse una riflessione a termine della quale ci fosse una scelta: liberi di scegliere sul canone per un servizio pubblico, oppure facciamo come in Spagna, senza canone ma sempre il servizio pubblico. Un assist per Mediaset sarebbe Mediaset un problema serio, sì, come è evidente. E però esattamente. Va bene, Sergio, la ringraziamo per questa lettura. Oh, tra l'altro, caro Oscar, dopo la pubblicità parleremo. Però non hai fatto dire che sul Fatto Quotidiano ci sono due belle paginette da leggere su questo tema del canone incostituzionale, coi numeri che non stanno in piedi, i 2 miliardi che il governo si aspetta, una buona parte se li vuole mettere in tasca. Leggete questo Fatto Quotidiano del lunedì, che non è sospettabile. No, perché di noi parleremo Berlusconi, di un altro biscottone, se vuoi, nel senso, ecco, discuteremo anche un po' del ponte di Messina, il ponte sullo stretto, l'ennesimo biscottone, se vuoi, perché fu o spottone più che biscottone, fu spottone di Berlusconi, e ora Renzi anche lui pare che dica il ponte di Messina. Naturalmente i renziani, diciamolo, dicono no, ma lui ha detto che prima bisogna fare questo mondo e quell'altro, però insomma, ragazzi, lo ha citato ed è un classico argomento elettorale. Quindi... Ma lo faremo dopo la pubblicità e dopo gli Oscar, li diamo i nostri Oscar? Allora io, visto che tu l'hai anticipato, io lo do a Sposetti, ci fa pagare, questo secondo la ricostruzione, insomma i debiti dei DS, non lui, dell'unità, Sposetti, dell'unità. Sì, dell'unità, 107 milioni in capo collo a noi. E l'Oscar gli diamo? Vabbè, ma dai, guarda, io che gli darei un'altra cosa. Ma è una performance di gran classe, c'è veramente il famoso furto con scasso. ecco, lo scasso del portafoglio. Ci vuole classe anche in questo. No, in questo Sposetti ne ha aiosa, per così dire. Vabbè. Il buon rivoluzionario, diceva Sposetti, deve sempre anteporre la difesa della propria causa a quella degli interessi comuni. Capito? E infatti ancora una volta è andata esattamente così, per così dire. Allora, il mio invece, molto brevemente, questa volta, per così dire, faccio un'eccezione, perché grazie alla pressione della stampa, non solo di Torino, ma della stampa sarda, siamo riusciti in 24 ore a fare capitolare la burocrazia statale della scuola, che diceva no al quinto anno di liceo scientifico nel nuorese a un ragazzo autistico che va benissimo a scuola, ma la scuola diceva no, non ti facciamo entrare perché a 20 anni non sei più nell'obbligo scolastico. E invece in 24 ore, grazie al cielo, questo ragazzo non reso di 20 anni farà il suo esame di maturità, e tra l'altro a voti altissimi. Vergogna per l'Italia, viva che ogni tanto la stampa riesca a ottenere cose buone. Bene, bene, assolutamente concordo. E allora qualche minuto di pubblicità e poi state con noi, rientriamo. 800 24 00 24, i microfoni sono vostri, biscottoni nostri. Siamo qui, le 8:41 minuti. Ci siamo. Tra l'altro, caro Oscar, abbiamo scoperto, colmando una nostra lacuna, perché si dice fare il biscotto? Perché non lo sapevamo. Non lo sapevamo. Quindi... pare che provenga dall'Ippica, perché in quell'ambiente si dava in alcuni casi il biscotto avariato o la galletta al cavallo per farlo andare male, e quindi fare il biscotto in quell'ambiente, nell'ambiente dell'Impica, è una combine. Vabbè. Abbiamo colmato questa, lo sapevate, cari ascoltatori, il biscottone proviene forse dall'Impica, chi lo sa. Allora, vorrei sentire Giuliano da Roma. Giuliano, buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi, buona giornata, nonostante le brutte notizie dal lato politico-economico. Io vorrei soltanto, perché prima Milan ha fatto una domanda a Oscar e ha chiesto se noi italiani l'avremmo fatto, e Oscar ha detto no, non l'avremmo fatto. Quella di Valentino. Purtroppo noi l'abbiamo fatto ben 15 anni fa, quando Loris Capirossi giocava il mondiale 125 nel 1990. Ah, nel 125 hai ragione. Eh sì, qui hai ragione. Allora racconto, perché hai perfettamente ragione. E praticamente lottava per l'ultima gara con due piloti. Uno si è steso da sole, vabbè. L'olandese Spagna invece è stato rallentato da Gresini e, se non ricordo male, dal compianto Romboni. Alla fine le hanno fatta talmente brutta che Spanna a fine gara ha tirato un cazzottone. Ha tirato un cazzottone, sì. Io 125. Non la ricordo perché non sono andate, Oscar se la ricorda. Sono andate così, naturalmente non stiamo parlando del MotoGP, però comunque stiamo parlando del campionato mondiale, è un'altra serie, 125 però. No, no, grazie, perché vedi, gli appassionati di motociclismo Io ho detto, senza saperne nulla, ma figurati se non l'avremmo fatto anche noi italiani, In MotoGP non si sono visti mai italiani fare cose simili, cioè nella classe, diciamo così, quella che conta di più, insomma. Sì, esatto, però è vero, e grazie al nostro ascoltatore che attentissimamente ci ha richiamato questo episodio che è accaduto nella Formula minore. Romeo ci chiama da Catania, buongiorno Romeo. Buongiorno. Se io vi seguo entrambi, mi complimenti. Conti della Belva, Alessandro Milan, ogni mattina mi fa compagnia prima di andare in ospedale, sono un medico. Bene. Vi volevo dire, voi siete mai scesi in autostrada fino a Messina? Sì. Vi siete accorti che alla fine di questa stratosferica autostrada poi si finisce in un sottopasso ferroviario dove a stento passano due macchine? Sì. E quindi vi torna che lo stretto di Messina si passa perché c'è un privato che gestisce tutto in maniera dittatoriale e i camion che restano in attesa giorni per passare lo stretto con le derrate che vanno a male? Quindi credo che il ponte sullo stretto, ci sono io col mio camper ho girato tutta l'Europa e ci sono ponti dappertutto, in nazioni che sicuramente meglio dell'Italia non si trovano economicamente parlando. Sì. Quindi credo che lo stretto, che il ponte sia un'utilità, ecco, questo era il punto a cui volevo arrivare. Romeo, la ringraziamo. Anche se però Romeo, i problemi che lei ha richiamato di quell'ultimo tratto a Messina si possono sciogliere e risolvere, dovrebbe avvenire in un paese civile ordinato, a prescindere dal fare il ponte, sì, vero infatti, o no Romeo? Infatti. Quel problema del sottopasso, le voci dei privati che pesano troppo non nei si risolve flussi con di traffico, un ponte, si potrebbero risolto. Risolvere a priori, a prescindere, come diceva Totò, no Romeo? Sì. Ecco. Ma non si risolve, resta sempre l'entranza che si oppone sicuramente al ponte. Però guardi Romeo, la sua considerazione la vogliamo girare a un ospite che è il professor Aurelio Angelini, è direttore in Sicilia della Fondazione Patrimonio UNESCO, insegna anche sociologia dell'ambiente a Palermo. Buongiorno professor Angelini. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Perché sul ponte sa che si torna a parlare, no? Lei ha anche scritto un libro, il mitico ponte sullo stretto, da Lucio Cecilio Metello ai giorni nostri. Ci rinfreschi la memoria, Cecilio Metello, quindi parliamo di che epoca? Ma stiamo parlando di quasi 2000 anni fa. Quasi 2000 anni fa. Stiamo parlando di un mito che fin da allora si coltivava per poter rappresentare la grandezza allora di un impero, oggi di un sogno che continua soprattutto ad alimentare quegli studi di progettazione e quelle società che ruotano intorno alla società che risponde a Romeo, che idea ha lei sul ponte sullo stretto? Ma sa, io in linea teorica non sono contrario a nessun ponte, anzi ritengo che i ponti, sia quelli hard che quelli culturali, servono ad avvicinare i popoli prima ancora attività produttive. Ma in realtà stiamo parlando di un'opera che oggi è fallimentare soprattutto per l'assenza di un flusso di mezzi, la stessa rete ferroviaria che in Sicilia langue, che è prevalentemente fatta a un binario, non si avvale più neanche del traghettamento, perché è del tutto evidente che se bisogna spostarsi dalla Sicilia verso l'Italia o la Francia o l'Inghilterra, uno ormai non si mette più in macchina. No, certo, prende un aereo e quindi, con magari 100 euro si sposta a Londra. Appunto, però professore, mi ha colpito molto una cifra che ho letto ieri sul Fatto Quotidiano e che lei vorrei ci confermasse o smentisse. 1 miliardo di euro è ciò che è stato sprecato dai regimi commissariali in Sicilia tra rifiuti, acque, dissesto idrogeologico. 1 miliardo? Sì. forse anche di più. Ma in quanto tempo? Ma diciamo nell'arco di 15 anni da quando vanno avanti questi regimi commissariali, che tuttora sono attivi in Sicilia, compreso quello del dissesto idrogeologico che è iniziato nel 2010 e ancora è operativo con risorse finanziarie rilevanti, che ha visto l'attuale assessore al territorio commissario per 3 anni e poi successivamente è passato assessore al territorio, ma noi abbiamo avuto risorse assegnate e mal spese prevalentemente nell'ambito dei rifiuti, parliamo di più di 700 milioni. Ma accidenti, un miliardo però, caro Oscar, in 15 anni non è Io sono dell'idea di più sul idrogeologico tra le spese pubbliche non andate a buon fine. Cioè, la cosa diversa è dal miliardo che costa non fare il ponte, perché le vicende sono che dal governo Amato, poi dal governo Amato 2 a dire la verità, poi il governo Berlusconi 1, il governo Berlusconi 4, Prodi fa marcia indietro e così via, si arriva poi a Monti che dice stop. E perché Renzi l'ha ritirato fuori? Però la verità è che tutti questi stop vengono fatti con un occhio strizzato al consorzio di imprese che intanto dal concessionario ANAS aveva vinto la gara, cioè questo consorzio Eurolink, l'Impregilo, Salini eccetera eccetera, e quindi il contenzioso, il miliardo di cui si parla è relativo a 300 milioni buttati dalla finestra in costi inutili della società che intanto andava avanti, ma poi il resto è il fatto che in giudizio questi privati di Eurolink dicono cari ragazzi, adesso ci date i soldi, voi fate il vai e vieni, però noi siccome l'avevamo vinto questa cosa, voi ci pagate, questo è il punto. Ma non so, lei professor Angelini ha capito perché Renzi politicamente l'ha ritirata fuori? Ma io credo che l'ha ritirata fuori questa storia del ponte perché in realtà è una promessa alla quale lui non sarà chiamato mai a rispondere, perché lui ha detto bisognerà farlo dopo che si sono fatte le strade, le ferrovie, esatto, eccetera. Cioè, quindi... Siccome la Sicilia dall'Unità d'Italia parla di queste infrastrutture, anzi nel dibattito fatto in Parlamento dopo l'Unità d'Italia si parlava del ponte sullo stretto come elemento strategico che avrebbe finalmente anche fisicamente unito il paese, quindi abbiamo un richiamo di un secolo e mezzo fa su questa opera mitica, ma in realtà se si dovessero fare le strade e le ferrovie in una condizione di dissesto del territorio, nelle condizioni in cui si trova oggi la Sicilia, è del tutto evidente che non verrà mai chiamato Renzi nel corso della sua vita a rispondere di questa promessa. Ma tra l'altro l'acqua a Messina è arrivata, professore, che lei ne sappia qualcosa? Non, cioè... Ma l'acqua è arrivata in parte, ci sono nella parte collinare della città l'acqua non arriva perché la pressione non è sufficiente, ma anche quella è un'altra lunga storia di commissariamenti che vanno avanti da anni e che hanno drenato lì anche centinaia di milioni per interventi che non sono serviti a risolvere i problemi strutturali. No, evidentemente In Sicilia sono stati spesi 700 milioni per i rifiuti e non sono stati realizzati gli impianti, sono stati spesi a pioggia in micro interventi che non hanno nulla a che vedere col superamento dell'emergenza, come la logistica, mezzi e attività di comunicazione, progettazione ed altro, tutte attività sussidiarie, ma non sono quelle hard che servono per rimuovere gli ostacoli per una corretta gestione. No, ma è chiaro, io sapete che ieri ho letto sul Fatto Quotidiano che addirittura a Giarre, pare, caro Oscar, esista un campo di polo, e sul Fatto Quotidiano ha scritto tra parentesi di polo col punto esclamativo, incompiuto, tanto che su USA Today hanno raccontato che per capitalizzare quei monumenti allo spreco il sindaco ha istituito l'assessorato alle incompiute, giuro, l'assessorato è l'ironia filosofica, no, come devo dire. È una cosa quasi da Pietrangelo Buttafuoco. Ma non è vero che c'è, l'assessorato alle incompiute. Ma se lei guarda per quanto riguarda i commissariamenti, che abbiamo abbiamo i post commissariamenti, cioè chiusi i commissariamenti, certo. Abbiamo i post commissariamenti. Come chiudere i commissariamenti? La quantità. Come chiudo e che continuano a svolgere delle attività. E questo è il punto. Sono le attività. Siamo, però lasciatemi ricordare le parole di un certo signore in diverse occasioni. 2012 a Sulmona, con tutti i problemi che ci sono nel meridione, il ponte non è nelle priorità. Dopodiché alle primarie contro Bersani, il ponte sullo stretto è una brutta pagina da chiudere, opera faraonica, mentre pochi giorni fa le case come sempre hanno continuato a cadere a Messina, anche allora è una presa in giro inqualificabile. Chi è questo signore? Un solo sospetto. Proporla, ecco, è Matteo Renzi negli anni, è Matteo sospettavo, Renzi, ecco. Sospettavo che si arrivasse a questo. Professor Angelini, noi la ringraziamo, vuole concludere? Stava aggiungendo qualcosa? No, la ringraziamo. Io diciamo condivido quelle affermazioni che allora faceva Renzi, nel senso che il ponte sullo stretto in linea teorica è qualcosa che potrebbe essere rilevante, ma in linea concreta, in relazione a quelle che sono l'insieme delle cose da fare, è una cosa, è un fatto insensato. La ringraziamo molto, l'assessore alle incompiute, però è bellissimo. È il vero futuro dell'Italia. Caro Oscar, c'è chi ci chiede, qua apriamo un dibattito, ma Valentino Rossi non è quello che ha fatto il biscottone al fisco italiano? No, neanche Dolce Gabbana, che in Cassazione hanno vinto, guardate un po'. E chi ci dice, ma ricordate che Gresini era compagno di Capirossi? Abbiamo aperto il dibattito. Ma qui sono gli appassionati di motociclismo, ragazzi, qui c'è gente che... Giusto così, gente che ne mastica. Gente che ha sofferto davvero tanto per quello che è successo con questo Marquez, ma insomma... No, ma io ho molto rispetto, perché... Seguo il calcio con passione, so cosa vuol dire anche soffrire. La sofferenza, sì, soprattutto in questi anni col Milan. No, ma so cosa vuol dire la gioia, ma anche toro, soffrire per una sconfitta sportiva. Lo capisco perfettamente. Ricordiamo al Papa che rubare, però, si applica innanzitutto ai soldi dei suoi cardinali. Francesco, se ci senti, se sei chiaramente ospite anche tu, anche lei, anche voi, è ospite quando vuole. Per carità. E se ci onora il Papa, crediamo che sia Cruciani che ci fa una telefonata. Ovvio. Allora, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione, con Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo, caro Oscar, domani. Continuate su Radio 24, a domani.